E tutto questo tempo andato, arrotolato in un gomitolo senza fine, di sogni e ricordi, di sillabe sussurrate in un monologo sincopato. Alle troppe emozioni senza ragione. E tutti questi volti andati, abbandonati in un cunicolo senza fine, di maschere vuote, vendute da un mercante di nebbia in una piazza fatta di sogni, pagine bianche di vita vissuta in silenzio senza ragione. Tempo di malinconiche cantate con un fil di voce, soffuse come luce evanescente, fra marionette immobili e maschere distratte, una carezza.